Ciao a tutte e a tutti. Io sono Sara della libreria indipendente Sabò. Per chi non ci conoscesse, siamo una libreria indipendente nata ormai 4 anni fa all'interno di uno spazio autogestito che si chiama TNT di Iesi. Facciamo parte di una rete più ampia. Che è la rete di Barricate di Carta, al cui interno sono presenti altre due librerie, sempre indipendenti, la libreria Arvultura di Senigallia e la libreria Colonna 130 di Fano. E oggi presenteremo il libro Corpi Estranei di Oiza Queensday Obasuyi, che ringrazio. Prima innanzitutto di, ecco, insomma, di aver accettato il nostro invito. Grazie E prima di iniziare volevo un po' spiegarvi come abbiamo deciso di strutturare l'incontro. In un primo momento, insomma, modererò io la presentazione facendo alcune domande a Oiza e quindi lascerò a lei, ecco, la parola. E in un secondo momento invece vorremmo lasciare più spazio possibile a interventi, a domande. Ho sentito un eco, quindi ok. Interventi e domande, e potete o prenotarvi attraverso la chat che sta su un quadratino a sinistra, oppure anche alzando la mano. Adesso magari, ecco, dopo mi segno un po' se ci sono alcuni interventi e poi vi lascio la parola. Per questioni di insomma, per far sì che non Gizi ci supporti e non ci mandi via da questo spazio, sì, vi chiederei, ecco, di tenere la telecamera spenta, ma ce l'avete praticamente tutti spenta. Mi dispiace tantissimo non vedere le vostre facce, ma purtroppo questi sono i nostri potenti mezzi e quindi così. Niente, ho detto tutto, sì. Questa presentazione si inserisce all'interno del nostro festival Eterotopie 4, Storia, Storia, Identità. E questo era un festival che si sarebbe dovuto tenere a marzo dell'anno scorso, però ovviamente per ovvi motivi lo abbiamo dovuto rimandare. E abbiamo deciso, dopo una sofferta e lunga riflessione, di realizzarlo in questa modalità diffusa nel tempo e nello spazio. E per adesso, ovviamente, purtroppo dobbiamo, insomma, ci troviamo, ecco, costretti a organizzare degli eventi online. Speriamo in futuro, ecco, che, di poter ritornare a toccarci di persone, a vederci. Il festival è iniziato a dicembre con la presentazione di Partigiani d'Oltremare di Matteo Petracci, ed è stata una presentazione un po' particolare perché è avvenuta in montagna e proseguirà poi nei prossimi mesi con altre presentazioni e libri e autori e autrici. Storia, Storia e Identità, questo nostro quarto festival è stato pensato e ideato più o meno un anno fa. Con l'aiuto e il supporto e l'energia di tutte le persone che volontariamente gestiscono questa libreria e anche e soprattutto con il supporto del nostro gruppo di lettura a cui noi siamo particolarmente affezionati e legati e che quindi mi piace sempre citare e ringraziare. È nato Storia, Storia, Identità, è nato principalmente con l'intento di indagare quali narrazioni esistono nel panorama letterario ed editoriale italiano riguardo a temi come il colonialismo, il razzismo e le questioni ad essi collegati e quali possono essere le potenzialità trasformatrici che ruotano intorno a queste narrazioni. Citando Belloux, in uno nei suoi scritti, nell'edizione italiana Elogio del Margine, recentemente tra l'altro ripubblicato per Tamo Edizioni. Con questo festival vorremmo imparare a vedere e a potenziare la nostra consapevolezza e la nostra comprensione verso questa realtà così complessa. Cito proprio alcune sue frasi. Ciò che minaccia il nostro benessere collettivo è un prodotto delle strutture dominanti. Il razzismo è un problema dei bianchi almeno quanto lo è dei neri. Per questo motivo abbiamo fortemente anche voluto presentare appunto il libro di Oizza. Comunque concludo questa presentazione perché vorrei lasciar parlare e dare spazio appunto all'autrice e sarò sincera, presentare un libro in questa modalità per me è davvero molto strano, non potervi vedere e guardare, e lo ripeto, mi dispiace, ma tanto è così e so che ce ne dobbiamo fare una ragione, però vorrei, come dire, sì, sottolineare questo fatto anche perché nel titolo di questo libro c'è una parola che è quella che è corpi e che in questa situazione di pandemia potremmo essere portati, no, a pensare che tutti noi siamo privati un po', ecco, del contatto umano e delle relazioni e che questa situazione ci possa accomunare tutti e renderci uguali. In realtà, leggendo il libro di Oizza, si capisce proprio che anche in questa situazione non c'è uguaglianza e invece le differenze vengono ancora più accentuate ed evidenziate. Leggere il libro di Oizza è stata davvero un'esperienza per me importante e interessante, soprattutto perché è un libro molto sincero, molto chiaro e anche con una prosa come dire, accessibile a tutti, nel senso è scritto molto in una maniera semplice, ma questo non vuol dire, come dire, non è un'accezione negativa, anzi, no? È un libro che secondo me potrebbe davvero arrivare a tante persone proprio per questo motivo e anche per la struttura che poi Oizza ha scelto. Affronta e osserva in particolar modo il tema del razzismo da diversi sguardi e punti di vista. Comunque, davvero adesso ti lascio la parola, ma vorrei iniziare chiedendoti e partendo da una citazione che tu fai all'inizio del libro di Achille Mbembe, non so se ho pronunciato bene, che dice: Le racisme ne pan accident se an ecosystem. Quindi il razzismo non è uno sbaglio, un incidente, adesso, letteralmente, è un ecosistema. E vorrei chiederti appunto, siccome ovviamente dal mio punto di vista questa frase racchiude un po' tutto il senso del libro. Ti volevo chiedere se ti andava di raccontarci appunto il perché hai deciso di scrivere questo libro, ma anche di spiegarci la tua narrazione intorno cioè che tipo di narrazione tu fai intorno al razzismo e di spiegarci che cos'è il razzismo in Italia oggi, che sembra una domanda banale, ma siccome tu nel libro dai, secondo me, il giusto peso al razzismo, cosa che invece ultimamente, no, no, non lo so, anche negli ambiti scolastici, il razzismo è discriminare la persona diversa, no? Ma non è solo quello, no? C'è tanto altro e ti volevo chiedere appunto il tuo punto di vista e la tua narrazione. Allora, grazie innanzitutto per avermi dato questa opportunità di poter presentare il mio libro qua con voi. In realtà, allora, il fatto è che tutto ciò che ho scritto nel mio libro sono questioni che già conoscevo, che in parte anche ho vissuto e che a un certo punto, siccome vedevo le cose come stavano andando in questo paese, ho deciso comunque di dare il mio piccolo contributo da questo punto di vista e scrivere il mio di punto di vista, che è quello di non solo una donna, ma di una donna nera in Italia, nel contesto italiano, quindi in un contesto, comunque a maggioranza bianca, in quanto minoranza etnica e donna, e anche queste sono due cose chiaramente intrecciate di cui eventualmente parleremo dopo. Quindi ciò che mi ha spinto fondamentalmente è questo, ma anche cercare di dare un punto di vista che secondo me fino a questo momento, anche se chiaramente lo dico subito, non sono l'unica, ci sono tantissime altre persone che in questo momento di origini diverse che stanno scrivendo, stanno parlando, stanno facendo sentire la loro voce, ma è importante proprio, secondo me, dare il punto di vista di una persona di cui si parla, di questi corpi appunto, come che parola che appunto fa riferimento al mio libro, di questi corpi appunto estranei, perché se ne parla ma non vengono mai interpellati in quanto soggetti, non solo soggetti di diritto, e poi vedremo anche perché, perché se vediamo tutta la situazione dei migranti vediamo che sono soggetti con dei diritti ma mai con il diritto di parola, perché è sempre qualcun altro che parla di loro, ma proprio perché appunto, come stavo dicendo, quando si parla di persone di origini diverse lo si parla soltanto in termini di un peso, quindi le migrazioni visti come un peso politico, come propaganda politica, come un mezzo di propaganda, se ne parla soltanto in termini di, per esempio, ius soli e nuove generazioni, ma tutte queste categorie che abbiamo appunto in Italia sono categorie di nuovo che puntualmente a mio parere vengono silenziate, perché vediamo queste parole essere pronunciate da persone bianche, la maggior parte delle volte uomini in televisione, ma ne parlano sempre in termini propagandistici, non c'è mai un vero intento di voler interpellare chi vive sulla propria pelle determinate situazioni e determinate condizioni socio-economiche ma anche socio-politiche. Di conseguenza è questo che mi ha portato a scrivere questo libro, questo vuoto, questa mancanza che secondo me c'è in Italia, la mancanza del punto di vista appunto di una persona che chiaramente è nata e cresciuta qua, ma che appunto ancora non viene vista, per esempio, come parte integrante di questo paese, perché sei nera, come fai ad essere italiana? Sei nera, come fai a parlare così bene l'italiano? Quindi questo già ha fatto alcuni riferimenti a quello che succede, può succedere per esempio anche nella vita giornaliera, ma anche e queste frasi magari ti vengono dette da parte di persone che non si definiscono razziste, perché come stavi dicendo anche tu, il razzismo è visto soltanto, cioè, o meglio, viene messo in evidenza soltanto quando si ha l'azione eclatante, quindi quando si ha la persona X, magari di origine senegalese, che è stata attaccata, aggredita, insultata perché nera, quindi lì è razzismo, la cosa finisce chiaramente sui telegiornali. Ma non è razzismo, per esempio, tutta la questione, o meglio, è difficile cogliere il razzismo quando si ha a che fare con esso tutti i giorni. Di conseguenza parliamo di quei bias cognitivi razzisti, come quelli che appunto stavo menzionando poco fa, quindi il dire ma come parli bene l'italiano, sei nera, come fai a parlare italiano? Ecco, queste sono frasi che non vengono percepite magari dalla maggioranza come razziste, ok? Però in realtà sono un sintomo, potremmo dire, di una realtà che non ha mai decostruito il razzismo e la discriminazione, che appunto passano attraverso queste frasi o comunque dei modi di dire delle percezioni che magari ancora si hanno come retaggi appunto razzisti, che possono derivare anche da un passato coloniale che non abbiamo mai decostruito. Di conseguenza è importante appunto analizzare, come ho fatto in questo libro, il razzismo da ogni punto di vista, quindi un razzismo che non si manifesta soltanto quando si ha l'azione eclatante, quando si ha l'apice, potremmo dire. Io penso ad esempio all'attentato razzista e fascista di Luca Traini a Macerata, quello è il culmine del razzismo, è il culmine. Tuttavia bisogna capire che il razzismo sistemico, e appunto proprio perché è un ecosistema anche questo, è come se fosse una specie di piramide. L'apice lo hai quando appunto si raggiunge l'azione eclatante, come abbiamo purtroppo visto quella di Luca Traini, ma alla base di questa piramide, o comunque tutti i tasselli che poi vanno piano piano verso la base, sono comunque elementi che magari vengono considerati meno gravi, ma che però contribuiscono alla creazione di questo ecosistema che, se non si decostruisce, chiaramente crea ulteriori problemi e soprattutto crea ancor più marginalizzazione, discriminazione nei confronti delle categorie razzializzate, che appunto sono persone di origini diverse e soprattutto a maggior ragione se di classi sociali maggiormente svantaggiate. Allora, in questo libro ho voluto chiaramente evidenziare cosa significa il razzismo da ogni punto di vista, partendo dalla questione coloniale e quindi da tutto quel passato, secondo me ancora purtroppo ancora rimosso dagli italiani, visto comunque come la campagna coloniale vista come un'avventura, potremmo dire. Lo abbiamo visto ad esempio recentemente anche con purtroppo il tipo di informazione che si è fatta inerente a Montanelli, tutta quella polemica che è nata sulla statua di Montanelli, ma anche qui c'è stata una banalizzazione del passato coloniale a livelli allucinanti. Un uomo che è considerato come grande giornalista, ma di cui non si considera comunque il fatto che era un colonialista, quindi un uomo bianco che è nato in una terra conquistata, in cui le donne sono state stuprate, in cui le persone sono state sterminate, ma anche qua si ha una percezione non davvero decostruita, potremmo dire, della questione coloniale italiana. Ancora non l'abbiamo digerita, o meglio, forse l'abbiamo digerita, ma in un modo molto molto banale e superficiale. Da qua continuo la mia, analisi del razzismo sistemico, arrivando poi all'oggi, parlando soprattutto della cultura, della questione culturale italiana, nel libro sono partita analizzando i film italiani e il modo in cui i film italiani in questo caso ritraevano le persone nere afrodiscendenti, stereotipi comunque ripetuti nel tempo nella televisione italiana, dalla donna nera che è sempre comunque vogliosa, insomma una donna che molto sessualizzata, che fa tradire l'uomo bianco e borghese, perché è la donna nera che seduce, non è mai colpa dell'uomo bianco e borghese che comunque si approfitta di lei. Oppure abbiamo l'uomo nero, sempre visto come una figura grottesca. Penso ad esempio al modo in cui, non so se avete mai visto il film Grand Hotel Excelsior, era un vecchissimo film in cui c'era Adriano Celentano, ma c'era una persona nera che appunto interpretava una specie di faceva parte dello staff dell'hotel, ma parlava con la classica parlata stereotipata che si dà a personaggi neri, con molte B e molte D, per esempio. Quindi tutte queste cose, pensiamo alla blackface che viene fatta puntualmente a tale quale show, quindi la figura nera vista come una macchia, una macchietta, quindi tutte queste cose contribuiscono ancora di nuovo a un immaginario che si ha della persona nera che però la discrimina. Anche in questo caso il corpo nero di nuovo viene utilizzato, ma per cosa? Per goliardata, la mia pelle viene vista come una maschera, quando in realtà, mentre magari la persona bianca si maschera di nero perché vuole interpretare una persona nera, io la mia pelle la indosso tutti i giorni con tutte le conseguenze, quindi razzismo, discriminazione, pregiudizi, stereotipi e così via. E poi di nuovo sono andata avanti, però si ferma qua il razzismo? Assolutamente no, perché se poi andiamo a guardare le leggi, razzismo sistemico a livello di leggi, no, che abbiamo in Italia, abbiamo la Bossi-Fini, abbiamo leggi liberticide che comunque continuano a potremmo dire a mantenere questa struttura classista e razzista della mobilità internazionale per pochi. Pensiamo a, per esempio, gli accordi con la Libia, quindi vediamo persone che non godono della libertà di movimento, perché abbiamo una fronterizzazione allucinante, non solo in Italia ma anche in Europa, l'abbiamo visto anche recentemente con i recenti fatti, adesso penso in questo momento per esempio anche ai Balcani, alla rotta balcanica, come penso chiaramente, ed è la parte che ho più analizzato perché ho più familiarità comunque con questo tipo di migrazione, cosa accade ogni volta nel Mediterraneo centrale, quindi con i barconi che affondano, eccetera. Perché non si vuole pensare a una mobilità internazionale che sia davvero alla portata di tutti, con vie legali e sicure per tutti quanti? Perché purtroppo, e anche questo fa parte del razzismo sistemico, la mobilità internazionale vale e funziona per te. Se hai un passaporto di serie A, quindi se tu nasci e cresci in Europa o negli Stati Uniti, hai un passaporto di grande livello e quindi questo ti permette di viaggiare pressoché ovunque. Se tu però nasci in un paese in via di sviluppo, non è la stessa cosa. Se tu nasci in Sudan e hai il passaporto del Sudan, non puoi viaggiare tranquillamente come una persona nata e cresciuta negli Stati Uniti, perché è un passaporto di minor valore e sicuramente hai bisogno di un visto. Ma che succede se le politiche sui visti sono restrittive e permettono di viaggiare soltanto se magari hai un certo reddito? Quindi vediamo come anche questi elementi fanno parte di questo razzismo sistemico, che di nuovo si basa anche qua su rapporti di potere geopolitici, anche sicuramente questo è molto importante da sottolineare, ma se notiamo è anche, potremmo dire, anche la conseguenza di secoli di storia basati sulla supremazia di determinate popolazioni su altre. Quindi il mondo di oggi chiaramente riflette quello che purtroppo, cioè è il risultato di quello che purtroppo è successo secoli fa. E ancora poi sono andata avanti parlando anche di quanto sia importante parlare della decostruzione e concludo, e poi se vuoi farmi un'altra domanda, dimmi pure. Però stavo dicendo che sostanzialmente è importante, secondo me, è anche affrontare questo tipo di discorso, che forse è anche più difficile, perché parlare di razzismo è difficile anche quando magari ci ritroviamo all'interno di collettivi che riteniamo antirazzisti. Perché dico questo? Perché magari tu hai tantissime persone che hanno tutta l'intenzione, no, magari di parlare di razzismo e di affrontare questi discorsi, ma magari, come qua è successo il contrario e sono contenta, ma a volte succede che magari ci siano panel in cui si parla di razzismo senza le persone razzializzate. Magari tutte persone che si definiscono antirazziste, però se tu fai un panel in cui parli di razzismo e tematiche di disuguaglianza senza invitare magari diretti interessati, capisci che il messaggio che mandi forse non è così, diciamo, chiaro e forse giusto. Di conseguenza è importante anche decolonizzare il modo in cui si fa antirazzismo. E in questo caso io ho parlato tantissimo del tipo di, diciamo, anche di pubblicità o comunque di narrazione a cui siamo esposti spesso quando si ha una narrazione antirazzista, che però più che liberare le persone razzializzate non fa altro che in un certo senso renderle quasi vulnerabili, come se fossero persone che hanno bisogno della manina per arrivare ad un'autodeterminazione. E questo, per esempio, lo possiamo vedere tutte le volte anche da parte di associazioni che magari fanno volontariato ma che ritraggono l'Africa, presa come un tutt'uno tra l'altro, con il bambino nero denutrito con le mosche in faccia. Quello, per esempio, è un modo, è un metodo utilizzato spesso, che chiaramente punta a sensibilizzare, ma che in realtà non fa altro che perpetuare una visione monolitica e sicuramente non decoloniale di Africa, di africani e dei corpi neri, che in questo senso vengono sempre comunque visti come delle persone senza un minimo di iniziativa, senza un minimo di autodeterminazione, ma sempre persone che aspettano la volontà dell'uomo bianco occidentale. E questo è comunque diciamo un aspetto che è stato tante volte decostruito anche da moltissimi autori e autrici afrodiscendenti, che è necessario distaccarsi da questa visione, perché comunque la persona nera di origine africana non è stupida, non è una persona che ha bisogno di aiuto nel senso che comunque non è una persona che non è capace di intendere, di volere, in questo senso qua, però è una persona che si vuole autodeterminare. E questo purtroppo è un tipo di narrazione che magari vediamo anche in associazioni, io per esempio anche guardo anche, che ne so, importanti ONG che salvano persone in mare, giustissimo, ma il tipo di narrazione anche giornalistica che si fa molto spesso è disumanizzante, a mio parere. Noto ad esempio spessissimo che i volti dei neonati non vengono mai censurati, quando per esempio, siccome ci teniamo tanto alla privacy dei minori, io ho notato questa differenza, quando si parla di bambini neri i volti non sono mai censurati, quando si parla di bambini bianco occidentali sempre, la privacy del minore vale soltanto se sei bianco occidentale, non se sei un bambino nero. Quindi ci piace, quello che io ho parlato qua è che purtroppo c'è una pornografia della disperazione, una pornografia della povertà quando si parla di corpi neri, di Africa africani, senza avere uno sguardo diverso, decoloniale, innovativo del corpo nero. E questo è uno sbaglio, è una perpetuazione anche questa razzista, perché non ci discosta mai da una visione diversa, no, dei corpi neri. Quindi ecco, e poi il libro, insomma, ne parla anche in modo molto più approfondito, ma è importante secondo me proprio rendersi conto che, come stavi dicendo tu, chiaramente il razzismo non è solo quando vediamo l'azione eclatante del neofascista che aggredisce la persona perché nera, ma purtroppo è un modo, potremmo dire, occidentale di concepire la società, di concepire le categorie razzializzate. E purtroppo è una questione che può colpire anche le persone che magari non si dicono razziste, ma che comunque sono state influenzate da un modo di pensare, di percepire i corpi neri, un modo comunque sbagliato, perché non c'è mai stato nessuno, magari fino a questo momento, che ha mai decostruito queste cose. Tant'è che io stessa, magari quando mi interfaccio con persone a cui dico, guarda che il tuo tipo di comportamento, anche se tu non ti definisci razzista, in realtà può risultare razzista, le persone di solito alzano un muro, perché ma io non sono razzista, ma io cosa ho fatto? Ma allora tu sei tu che esageri. C'è sempre questa operazione che si chiama in inglese gaslighting, cioè quando la persona, quando tu dici guarda questa cosa è razzista, lo capisci perché tu sei la persona razzializzata, quindi sai benissimo che per te è offensiva, e la persona non razzializzata, magari bianca, ti dice ma non è vero, sei tu che sbagli, sei tu che esageri, facendoti sentire inadeguata, quando in realtà no, io queste cose le subisco insomma, le vivo tutti i giorni, come fai tu, persona bianca, a sapere che quella cosa non è razzista quando sono io che te lo dico perché lo subisco? Quindi anche questo è un comportamento che di antirazzista non ha assolutamente nulla, no? Quindi ecco, è difficile analizzare il razzismo, ma sicuramente bisogna farlo partendo, come dico sempre, dall'ascolto di chi non è discriminato, cioè dell'ascolto delle persone razzializzate, e soprattutto che ci sia comunque una voglia di cambiare, ma che appunto deve partire sicuramente da rendersi conto che se si è persone bianche in un contesto a maggioranza bianca si ha comunque un privilegio. E non parlo di privilegio economico, ma comunque di il discorso è questo, che la pelle bianca in un contesto a maggioranza bianca non è la cosa che rende la tua vita difficile, no? Rispetto a una persona razzializzata che ha, io sono nera, no? Una mia amica, per esempio, è successo che ha parlato al telefono con uno con cui doveva avere un appartamento per il contratto d'affitto. Al telefono parlava un italiano perfetto, si è presentata: ah, ma lei è nera? Cioè, è questo il discorso. E queste sono cose che passano così. Chiaramente questa persona che aveva l'appartamento non è Luca Traini o il fascista di turno, è una persona comune. Per farvi capire come il razzismo in realtà appunto è un ecosistema, proprio per questo motivo qua. E scusate, mi sono dilungata. No, super interessante. Volevo chiederti, a proposito appunto di farti questa domanda, sì. Cioè nel momento in cui proviamo ad avere, a prendere consapevolezza, no? Che anche dei nostri atteggiamenti possono essere incrementare in qualche modo il razzismo, no, anche senza rendercene conto, nel momento appunto in cui prendiamo questa consapevolezza, quali sono i campi e gli spazi in cui poter decostruire appunto questa il razzismo e in quali modalità? Mi spiego meglio. Sì. Ad esempio, leggevo nell'ultima pubblicazione della rivista Jacobin di Alegre, sì. Cioè tutta, che si chiama proprio La scuola non serve, uh-huh. Ci sono dei materiali molto interessanti che sono dedicati agli insegnanti, che si intitolano proprio Materiali per una didattica decoloniale. E si parla molto del tema della riparazione, razza e riparazioni, e sono stati realizzati da Magda Ghebremariam Tesfau e Angelica Pesarini. E ho riflettuto molto, io lavoro nel campo della scuola, e mi sono chiesta come effettivamente poter entrare all'interno di un sistema come la scuola, no? Per iniziare questa decostruzione, perché forse potrebbe essere un campo, no, potrebbe, è un campo, sì. Potenzialmente molto importante da decostruire. Certo. Quindi ecco, ti volevo chiedere se anche secondo te appunto la scuola può essere un buon punto di partenza, sì. E se puoi, se hai dei suggerimenti, cioè in che modo poterlo fare, e anche magari se ti va di parlarci della tua esperienza a scuola. E chiudo anche perché lavorando a scuola mi rendo conto che tutte quelle cose che tu dicevi, no, rispetto a quando magari arriva un ragazzino in classe, si chiede: ah, ma tu sei italiano? Di quale nazionale? Dove sei nato? È come se diamo per scontato che magari una persona, no, non sia nata in Italia solo dal colore della pelle. Leggendo adesso, ascoltando interviste, no, mi sono ritrovata in tanti di quei comportamenti. E quindi... Certo. Questo. Allora, sicuramente non è semplice, perché comunque sia quando soprattutto si parliamo un attimo di bambini elementari, così poi superiori è un altro discorso, quando si parla di bambini si tende spesso ad assumere un comportamento del tipo: i bambini siamo tutti uguali, giochiamo tutti insieme e ogni bambino è uguale. Verissimo, cioè nel senso tutti i bambini sono uguali, tutte le persone sono uguali, nel senso sono tutti esseri umani, ma purtroppo poi in realtà non è così. E secondo me una cosa principale è forse togliersi il pensiero del fatto che i bambini non vedano colori, perché non è assolutamente vero. Per esempio, io pensavo al fatto che quando ero alle elementari, magari quando la maestra ti diceva ora disegnatevi voi, io avevo magari una consapevolezza del fatto sì, la mia pelle è marrone, mi coloravo di marrone. Ho altre comunque mie conoscenze anche di bambine o bambini quando erano piccolini, neri, che si coloravano di rosa, perché magari la percezione era il fatto che non c'è mai stato magari un'analisi seria su, potremmo dire, le differenze delle persone. Perché è facile ed è bello pensare siamo tutti uguali, però in realtà non è così. Ma allo stesso tempo non è che essere neri deve essere una vergogna, quindi perché devi colorarti di bianco quando sei, se un bambino direbbe, marrone, no? Di conseguenza queste cosine qua sembrano banalità, però in realtà educare le differenze è importante, perché bisogna educare alle differenze e a rispettare le differenze, è questo il discorso, perché dire siamo tutti uguali non sconfigge il razzismo, anche perché non è, cioè non si arriva a una sconfitta del razzismo. Il punto è rispettarsi a vicenda e rispettare le differenze dell'altro. E il discorso è, invece, partendo da una visione un pochino più adulta, medie superiori, sicuramente si spera che già arrivando a medie superiori questo tipo di, perché io per esempio parlando della mia esperienza personale non ho mai avuto problemi, nel senso ero sempre l'unica nera nella classe, ma non ho mai avuto problemi del tipo ragazze che mi dicessero ah ma tu sei nera, ma dico, cioè fortunatamente non mi sono mai trovata male, però può essere il caso magari di qualche altra persona. Il discorso secondo me nelle scuole è sicuramente fare un tipo di, magari organizzare anche incontri, panel, anche con persone che si occupano di queste persone, di queste argomentazioni, soprattutto persone magari afrodiscendenti o anche di altre origini, ormai ci sono, cioè si possono chiamare persone che parlino, che vadano in classe comunque a parlare di queste tematiche, antirazzismo, decoloniale, antirazzismo, eccetera. Però allo stesso tempo ripenso anche ai testi scolastici, cioè per esempio se pensiamo alla storia, cioè il fatto stesso che nei libri di storia il colonialismo italiano abbia una colonnina e basta, è un problemone questo, e contribuisce comunque ad avere una visione eurocentrica e parziale di quello che è stato il colonialismo italiano, che è visto sempre come una conquista per l'Italia e una valvola di sfogo per i lavoratori italiani che poi andarono nel Nord Africa per trovare appunto un posto al sole, eccetera, eccetera. Cioè, si racconta sempre così, ma mai il punto di vista di chi viene colonizzato, quindi corpi neri di nuovo distrutti, sterminati, donne usate come prostitute, come schiave sessuali, anzi. Di conseguenza c'è tutta questa parte che viene completamente omessa, ripartire dalla scuola sicuramente, ma una scuola in cui ci sia un'educazione appunto antirazzista, quindi è chiaro che fare programmi per bambini da questo punto di vista non è semplice, perché magari uno arriva a questo tipo di consapevolezza quando è adolescente o comunque quando in età adulta, potremmo dire, però già cominciare anche con la questione dei colori, delle differenze e l'educazione alle differenze e del fatto che comunque un bambino nero, un bambino di origine africana, di origine cinese, comunque sia è italiano, è importante, ma questo deve derivare anche magari da maestri o maestre che anziché magari, che ne so, perché succede anche questo spesso, dire al bambino in questione, alla bambina in questione, ma da dove vieni, ma cosa fai, ma cosa fanno i tuoi genitori, a volte c'è questo tipo di comportamento qua, e ci sono tutti i bambini bianchi che si girano verso di te, che ti ascoltano così con questi occhioni, e tu sei lì che non sai un attimo cosa rispondere, poi quando dici, ma io vengo da Roma, non è possibile, come vieni da Roma, sì, però le tue origini, cioè, sono domande che comunque vengono fatte di continuo non solo a persone adulte, a me vengono fatte anche oggi, tra l'altro anche adesso che ce l'ho 26, io non immagino cosa possa essere, poi non saranno tutte le realtà scolastiche delle elementari, però magari ci sono magari maestri o maestre che hanno ancora questo tipo di approccio, diciamo, potremmo dire non giusto, ecco, potremmo dire, nei confronti di bambini di origine diversa. Quindi sicuramente l'uguaglianza sulla base del fatto che tutti e tutte hanno il diritto all'istruzione, tutti devono andare comunque di pari passo, e se ci sono difficoltà comunque dal punto di vista economico, familiare, di ogni, qui ci deve essere uguaglianza assoluta e tutti devono avere accesso. Il discorso qua è che quando magari ci interfacciamo con questioni inerenti al colore della pelle e alle origini, magari è difficile già parlare di uguaglianza, perché per esempio nel momento magari la maestra dice ai bambini voi siete tutti uguali, poi arriva il caso del bulletto, può succedere in classe, che accusa proprio il bambino nero, no? Che dice, lo prendi in giro per il colore della pelle e qui dopo vediamo che la questione dell'uguaglianza crolla. Allora sì, vuol dire che il bambino lo vede il colore diverso dal suo. Quindi il pensiero stesso di escludere l'argomento del razzismo dalle scuole, soprattutto dell'infanzia, secondo me è un pensiero sbagliato. Bisogna assolutamente cominciare da quella fase dell'età lì, perché i bambini lo sanno benissimo. Ci sono stati, per esempio, mi ricordo di un esperimento fatto, adesso se non ricordo male, negli Stati Uniti, l'esperimento della bambola, forse lo avete visto qualche volta nel video online, del fatto che ai bambini neri veniva presentato un bambolotto nero e un bambolotto bianco, e quando chi si occupava di questo sondaggio chiedeva ai bambini chi è secondo dei due, qual è quello cattivo, i bambini neri indicavano il bambino nero. Cioè, questo per far capire che comunque sia ci sono anche degli stereotipi che i bambini, anche in età infantile, concepiscono, capiscono, interiorizzano. Di conseguenza questo tipo di differenza lo coglie anche il bambino bianco, no? Quindi è importante, secondo me, fare un tipo di educazione antirazzista, capire quali sono le differenze, ma al contempo rispettarle quelle differenze. Quindi secondo me è proprio stupido e deleterio pensare che alle elementari non educare a differenze sia un modo di fare antirazzismo. In realtà non è così, perché antirazzismo funziona nel momento in cui tutti riconosciamo che ci sono differenze e ci battiamo per sconfiggere le discriminazioni che vengono poi proiettate verso queste differenze. Questo è il discorso, perché io penso che anche la frase saremo tutti uguali lo saremo, cioè per ora è utopica, ma lo saremo quando il razzismo sarà sconfitto. Ma per ora cosa dobbiamo fare? Recuperare il concetto di razza. Siamo divisi in etnie, sì, ma intendo dire il concetto di razza a livello sociale, decostruirlo e distruggere il razzismo. E ora siamo in realtà in una fase embrionale in cui ci rifugiamo tutti neri, siamo tutti uguali, ma in realtà poi non è così, perché poi io ho scritto questo libro, quindi dopo vediamo che non funziona esattamente così. E forse quello che forse fa paura, potremmo dire, la maggioranza bianca, che si dice non razzista, è proprio recuperare questo concetto di razza, perché magari ricorda questioni storiche inerenti un po' anche al periodo nazifascista, come anche al periodo colonialista forse. Però in realtà è importante recuperare questo concetto per decostruirlo con le persone che subiscono tutti i giorni questa cosa qua, perché ci accorgeremo poi che il razzismo, di come lo concepisce la persona bianca in generale, che è il razzismo cos'è? Prendo il dizionario e vedo la definizione, però forse è un po' più complicato di così, insomma, no? Quindi è importante fare una decostruzione più ampia del razzismo, altrimenti non ce la faremo mai. E sicuramente, come dicevi, partire dalle scuole è fondamentale, però partendo da un'educazione a differenze e soprattutto introdurre nei testi scolastici qual è la storia inerente alle popolazioni del sud globale, perché tante volte questa cosa qua la saltiamo, ma non solo il colonialismo italiano, parlo anche del colonialismo inglese, francese, insomma è importante, altrimenti abbiamo sempre una visione eurocentrica della storia, ed è sbagliato, e anche questo contribuisce alla retorica razzista, sicuramente. Nel tuo libro c'è una parte dedicata allo ius soli e al concetto di italianità. Ti volevo appunto chiedere, ecco, se ti andava di parlarcene, e anche qui racconto una cosa ovviamente sempre legata alla scuola, ma ultimamente faccio solo quello, lavoro, quindi. Parlo di questo perché a scuola molto spesso con i ragazzini stranieri o che comunque non hanno ancora la cittadinanza, si tende sempre a dire proprio il contrario di quello che tu scrivi nel libro, no? Sì. Che in qualche modo è qualcosa che bisogna meritarsi. Uh-huh. E quindi il ragazzino in questione, gli studenti, le studentesse in questione devono in qualche modo essere più bravi degli altri. Sì. Perché comunque devono raggiungere un obiettivo devono integrarsi nella nostra comunità e mm-hmm. quindi bisogna che insomma siano come dire, se la sudino un pochino, ecco, questa conquista. E niente, ti volevo chiedere la tua opinione. Certo, assolutamente sono in disaccordo con ogni concetto che riguarda il merito della cittadinanza, anche perché partendo proprio da una specie di paragone, no? non è che la persona italiana bianca, che è italiana per ius sanguinis, quindi perché i genitori sono italiani di sangue, quindi pensate che concetto arcaico che abbiamo, non è che loro se la sono meritata, hanno avuto semplicemente la fortuna di nascere da genitori di origine italiana, bianchi, o comunque, o di cui almeno uno dei due ha sangue italiano, quindi magari una persona può essere nata da un genitore di origine senegalese e l'altra italiana, però basta che l'altra persona sia italiana per appunto dargli il diritto, no, alla cittadinanza, però per sangue. Il discorso è proprio questo, che noi abbiamo un concetto basato, potremmo dire, sul merito, perché quando per esempio ripenso all'episodio, tra l'altro che ho riportato anche sul libro, dei ragazzini che hanno sventato quella specie di attentato all'autobus, nell'autobus in cui l'autista aveva dato fuoco all'autobus, due ragazzini di origine egiziana e marocchina avevano appunto avvertito la polizia e hanno in qualche modo salvato appunto la scolaresca. Questi ragazzini, ecco, erano nati in Italia ma ancora non avevano la cittadinanza. Fatto sta che dopo tutta la cosa divenne chiaramente questione politica, propagandistica, eccetera, ma alla fine ottennero la cittadinanza, ma in onore del fatto che avevano compiuto questa azione per l'Italia, potremmo dire, cioè hanno sventato un attentato, hanno chiamato la polizia per il coraggio di questi ragazzini. Ecco, quindi io mi ricordo che quel giorno, benché fossi felice per i due ragazzini, non ero felice per le motivazioni che i giornali, insomma la stampa, personaggi, figure politiche avevano dato per concedere la cittadinanza a questi due ragazzini, ossia l'idea che appunto che si è fatta passare è che se tu fai qualcosa per l'Italia ed è qualcosa di bello, di forte, che ti dà onore, tu ti meriti la cittadinanza. Da questo punto di vista appunto si crea allora una specie di discriminazione, in quanto tu sei cittadino italiano se fai qualcosa per l'Italia, quando in realtà la cittadinanza è un diritto e soprattutto è un qualcosa che ti permette di essere uguale agli altri. Allora uno qua potrebbe dirmi, come succede sempre, ma non è che se un bambino di origine straniera nasce in Italia, comunque gli è, non ci sono servizi per lui o per lei, cioè nel senso comunque ha diritto alla scuola, ha diritto alla sanità, eccetera, eccetera, verissimo, però in realtà si creano dinamiche molto molto differenti, tanto per cominciare quel bambino è legato al permesso di soggiorno dei genitori. Se il permesso di soggiorno dei genitori scade perché uno dei due o entrambi perdono il lavoro, per esempio, è una condizione fondamentale, perché per esempio possono esserci casi in cui perdi il permesso di lavoro, perdi il lavoro, perdi il permesso di soggiorno e ti rimpatriano. Allora quel bambino lì poi è costretto ad andare in un paese, nel paese di origine dei genitori, un paese che probabilmente non ha mai visto perché è nato e cresciuto in Italia, tutta la sua vita l'ha vissuta qua, però qui già si instaura una discriminante rispetto al bambino nato e cresciuto in Italia, no? Da genitori italiani. Altra cosa, qua ho scritto per esempio l'esempio della sindaca di Lodi che fece un provvedimento assurdo per cui praticamente i bambini di origine straniera, di cui la maggior parte comunque era nata in Italia, o comunque anche se non lo erano, per come lo vedo io, comunque il diritto ai servizi scolastici devono essere garantiti a tutti e tutte, indipendentemente dal fatto che si tratti di bambini, di cittadini italiani o meno, ma in questo caso la questione proprio è un esempio lampante, perché in questo caso i bambini per avere accesso alla mensa e al servizio scuolabus dovevano provare appunto che dovevano diciamo fornire l'ISEE dei genitori dal paese di origine, quindi praticamente c'erano genitori di origine marocchina, senegalese, eccetera, di tutte le origini del mondo, che praticamente si trovavano in una situazione assurda in cui c'erano questioni burocratiche allucinanti in cui dovevano recuperare le dichiarazioni di redditi dal paese di origine, quindi tutte trafile burocratiche allucinanti. Ma fino a quel momento, cioè finché il genitore non provava appunto il loro ISEE, non provava il suo ISEE, il bambino non poteva avere accesso ai servizi scolastici, come la controparte bianca italiana di sangue. Questi erano bambini comunque, alcuni diversi nati e cresciuti in Italia, ma comunque considerati stranieri in Italia e di conseguenza non adatti, non idonei a partecipare, a usufruire dei servizi scolastici. Quindi questa chiaramente è una sindaca leghista, lo dico, quindi possiamo anche capire un po' il contesto, ma comunque vediamo come leghista o meno il razzismo sistemico, perché sistemico proprio perché riguarda e incorpora anche questioni burocratiche di leggi, vediamo come i bambini a questo punto non sono trattati allo stesso modo, anche se hanno accesso alla scuola. Altra cosa, chiaramente una cosa comunque importante è il diritto di voto. Chiaramente se non sei cittadino italiano non puoi votare, e in ogni caso ci sono ragazzi e ragazze adulti ormai che potrebbero votare ma che non possono perché non hanno la cittadinanza, ancora per questioni burocratiche, per questioni di reddito. Quindi vediamo che la cittadinanza quindi diventa anche una questione classista, è un privilegio anche questo, perché ci sono casi in cui purtroppo c'è chi non ce la fa, se non c'è un certo reddito non puoi avere accesso poi alla cittadinanza. Abbiamo persone incastrate in questioni burocratiche che comunque, la classica burocrazia italiana purtroppo, ma comunque sia, in cui non ottengono i documenti perché l'ufficio ha avuto questo problema, eccetera, eccetera. Ancora un altro esempio, forse meno importante, ma che comunque rientra nelle discriminazioni e nelle differenze che ci sono. Se sei un ragazzo o una ragazza che, per esempio, fa richiesta di cittadinanza, la procedura per ottenerla al compimento di 18 anni, cioè tu fai richiesta, ma nel momento in cui tu fai richiesta, tutto il periodo che va, insomma, da quando fai richiesta fino ai 18 anni, è un periodo in cui tu devi dimostrare gli anni di residenza in Italia. Quindi questo implica che se io, per esempio, volessi in quel frangente di tempo fare un viaggio con i miei genitori, non so, andare nel mio paese di origine, la Nigeria, quello potrebbe comportare un problema se sto troppo a lungo fuori, perché lì magari ci potrebbe essere un buco in cui dopo l'ufficio mi dice: ah, però tu qua in questo periodo di tempo non sei stata in Italia. Di conseguenza questo potrebbe forse comportare un problema relativo al tutto l'iter per ottenerla. Quindi vediamo quanti ostacoli ci sono per ottenere quella cittadinanza, secondo la legge appunto 91-92. E anche lì comunque si creano diversi problemi, tra la burocrazia, le pratiche che non finiscono mai e così via. Di conseguenza, quando si è parlato di Ius Soli, no, nel 2017, cosa che anche qua è stata completamente stata proposta, poi è stata affossata, nessuno ne parla più anche a livello politico, quindi vediamo proprio come questa cosa interessa a molti, ma purtroppo appunto non se ne parla più, ma ancora abbiamo una situazione incredibile. Ho visto adesso di recente una statistica di Info Migrants che diceva che ci sono più di 800.000 studenti stranieri, di cui il 65% è nato in Italia. Quindi abbiamo una condizione, cioè delle leggi obsolete sulla cittadinanza, che non sono lungimiranti, che non vogliono appunto essere innovative e guardare la realtà dei fatti, ossia che l'Italia sta cambiando radicalmente, ma continuiamo a considerare persone nate o cresciute qua come straniere, e con tutte le conseguenze che ne derivano. Di conseguenza questo è un problema enorme e rientra nel razzismo sistemico. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, c'era qualcos'altro che ho risposto, e di conseguenza è un problema enorme, e la cosa davvero vergognosa a mio parere è che nessuno ne sta più parlando. Ci sono chiaramente mobilitazioni, ragazzi e ragazze che continuano a parlarne, di diverse origini chiaramente, l'associazione appunto Italiani Senza Cittadinanza, una pagina Facebook, ma anche un collettivo che comunque si è mobilitato tante volte anche a Roma, nella capitale, per appunto chiedere finalmente, più che chiedere, pretendere giustamente lo Ius Soli, ma ancora non si è combinato nulla. E poi io tra l'altro sarei più per uno Ius Soli tout court, cioè che si basa appunto su nasci, cresci qua, bon, sei italiano. Io sarei più per questo, sono molto radicale su questo, perché anche, per esempio, e chiudo parentesi, il concetto dello Ius Culture, possa essere appunto un enorme passo avanti, comunque c'è sempre quel vincolo che riguarda appunto il compimento di almeno un ciclo scolastico di studi. Ma che succede se la famiglia di quel bambino, per esempio, perché può succedere, non ha le risorse importanti, le risorse per far sì che quel bambino appunto riesca a proseguire gli studi, o quel ragazzino? Possono esserci magari problemi economici, e poi anche qua c'è sempre tutta una questione di reddito. Quindi anche qui bisogna creare politiche appunto sullo Ius Soli che siano davvero includenti, davvero inclusive, e che non impediscano quindi a determinate persone di tenere la cittadinanza e ad altre no, per una questione classista, perché magari si possono verificare anche queste dinamiche qua. Di conseguenza è un argomento anche questo difficile, ma secondo me bisogna sempre puntare a vedere la cittadinanza come un diritto in primis, cioè non è assolutamente alcun tipo di merito, è l'idea del merito, è veramente non solo una questione, un'idea classista che si ha, ma è proprio lontana da qualsiasi concetto di diritto e appunto diritti fondamentali della persona, sicuramente. Bene, intanto volevo dire che se ci sono interventi, domande, potete, ecco, come ho detto prima, prenotarvi con la manina, scrivere, oppure anche semplicemente potete aprire, ecco, la telecamera, magari, e invito tutti, ecco, a partecipare, tutti e tutte a partecipare in maniera molto spontanea e tranquilla. Nel frattempo, che do qualche minuto, ecco, per pensare, ti volevo chiedere, perché c'è un capitolo che poi ne avevi parlato tu all'inizio, mentre facevi appunto la presentazione del libro, in cui si parla delle donne nere. Ti volevo chiedere quanto. Volevo un po' parlare dell'aspetto della relazione tra la lotta, le lotte che portano avanti le donne e non, quindi le lotte femministe o transfemministe, quanto si legano e quanto hanno anche a che fare con le lotte appunto per la decostruzione del razzismo. Sì. Questo. Allora, anche qui è importante di nuovo avere un'idea comunque intersezionale del femminismo, perché chiaramente magari quando si pensa al femminismo a qualcuno magari può venire in mente Angela Davis, me lo auguro, ma magari ad altri vengono più che altro forse femministe importanti della storia, ma magari tutte bianche. Quando parliamo di lotte femministe, secondo me, cioè, magari negli ultimi tempi la cosa è cambiata, però si ha ancora uno sguardo magari molto eurocentrico legato alla donna magari bianca, borghese anche, perché come sappiamo abbiamo diversi tipi di femminismo, femminismo più liberale, femminismo socialista, diversi tipi. Però chiaramente quando si parla di donne razzializzate bisogna sempre tenere presente che non solo la donna subisce discriminazione in quanto donna, subisce patriarcato, sessismo in quanto donna, ma chiaramente adesso è legato anche il razzismo e di conseguenza donna più categoria razzializzata. Di conseguenza è importante tenere presente questo tipo di dinamiche perché una donna nera comunque subisce entrambe le discriminazioni. E bisogna tenere presente anche quali sono questo tipo di discriminazioni e perché è importante decostruirle. Per esempio, nel libro ho parlato, della donna nera, di come viene vista e di come tantissimi stereotipi che magari troviamo in Italia derivino ancora oggi da retaggi coloniali razzisti. Prima stavo facendo riferimento proprio al fatto che proprio perché la donna veniva utilizzata, schiavizzata sessualmente, la donna nera delle colonie, anche oggi comunque si ha un'idea della donna nera, dicevo prima, perennemente vogliosa, sempre pronta a dire sì a tutti quanti, la donna nera è solo una prostituta e solo una prostituta può essere. Successo anche, ripeto, a mie amiche che stesse, facevano comunque i cavoli loro nel marciapiede, la macchina che le approccia dicendo quanto prendi, perché chiaramente sei nera, sei per strada, sei sul marciapiede, cos'altro puoi essere? Si ha un'idea comunque di donna nera molto anche stereotipata, inerente al fatto che la donna nera è sempre quella, oppure è quella aggressiva, è quella che anche se risponde magari in modo assertivo, comunque viene vista come aggressiva in un certo senso, quindi si hanno molti stereotipi da decostruire, ma essere donna nera significa anche subire un sessismo, un razzismo anche dal punto di vista istituzionale, perché nel libro non ho riportato soltanto questo tipo di casi e i casi, forse magari dopo ne parlo in maniera più approfondita, anche perché forse tra virgolette è una tematica leggermente più leggera, diciamo così, però a livello sistemico abbiamo donne nere migranti, per esempio, che subiscono di continuo razzismo sistemico dello Stato quando parliamo di situazioni come quella di Becky Moses, che era una donna nera nigeriana che è morta nel ghetto di San Ferdinando, nel ghetto dei migranti braccianti. Quindi abbiamo situazioni disumane dove donne afrodiscendenti vivono proprio perché abbiamo politiche sull'immigrazione veramente allucinanti, come la Bossi-Fini, appunto, che non permette di condurre una vita serena perché ci sono, perché appunto il permesso di soggiorno è legato al contratto di lavoro, ma se tu non hai lavoro non puoi avere il permesso di soggiorno. È tutto un circolo vizioso allucinante che porta spesso molte persone richiedenti asilo a vivere nelle condizioni della precarietà, e ci sono tantissime donne che sono anche vittime di tratta, di abusi, quindi abbiamo categorie razzializzate che sono comunque importanti e che vanno menzionate quando si parla di femminismo, perché altrimenti, cioè, deve essere una lotta universale, globale, intersezionale per tutte le donne che appunto del mondo. E di conseguenza quello che appunto è importante è ricordarci che nei dialoghi appunto femministi è importante avere parti diverse, donne di diversa etnia, donne di diverse esperienze, di diversa classe sociale soprattutto, perché magari sui social vediamo tantissime pagine interessanti, femministe, che magari si occupano magari delle cose forse un pochino più facili, come potrebbe essere anche per esempio, magari si parla anche di parità salariale, giustissimo, ma si parla anche magari di body positivity, tutte queste cose qua, importantissime. Però secondo me potremmo fare ancora di più parlando di classe. Secondo me la questione della classe, di come la classe sia legata, razza e classe, proprio per citare Angela Davis, siano collegate, secondo me sono cose importanti di cui bisogna, su cui bisogna insistere ancora di più. Secondo me è importantissimo questo, perché magari, ecco, avere donne razzializzate e che vivono in condizioni precarie, ecco, questi argomenti qua secondo me escono fuori poco. Ed è importante, perché altrimenti non possiamo parlare di femminismo senza parlare di razza e classe e di come queste due cose siano concatenate e di come la vita, insomma, il modo in cui si interfaccia con la realtà una donna di classe sociale magari svantaggiata e una categoria razzializzata sia comunque completamente diverso da una donna bianca, no? In Italia, che magari subisce altre discriminazioni sessiste, però chiaramente non essendo una donna nera o di altra origine, magari non può concepire determinati episodi o determinate condizioni che appunto subisce quella donna. E ritornando appunto alla questione della decostruzione di come viene vista la donna nera, nel mio libro ne ho parlato anche in modo un po', cioè per far capire anche nella banalità, nella quotidianità, come vengono viste le donne nere. Dicevo, sempre vogliose, sempre pronte a soddisfare tutti gli uomini che le capitano a tiro, il primo approccio che si utilizza per appunto provarci con la donna nera è appunto quanti uomini ha avuto e soprattutto se il pene dei uomini neri sia più grosso di quelli bianchi, perché per carità l'ego maschile deve essere sempre servito e riverito in tutti i sensi, quindi si hanno questi approcci qua e di conseguenza qui capiamo qual è la differenza, cioè si è vista come una donna in generale è vista purtroppo nella cultura maschilista come un pezzo di carne in generale, purtroppo abbiamo ancora questa cultura qua, però se è una donna nera sei ancora di più vista come un pezzo di carne, perché l'associazione è donna nera, allora facile, tra virgolette, no? E quindi abbordabile, e quindi la posso utilizzare come voglio io. È questo il tipo di, che è lo stesso tipo di retaggio comunque coloniale che si ha, che si aveva tempo fa. E la donna nera, per esempio, è anche priva di sentimenti, cioè è vista come una persona che è solo sesso selvaggio, selvaggio inteso proprio nel senso potremmo dire disumanizzante della persona, ma non una donna che ha sentimenti, non una donna che ha aspirazioni, non una donna appunto che è autodeterminata, cioè si hanno preconcetti e pregiudizi che davvero comunque fanno male e che è importante decostruire, e magari questa è una donna bianca, anche se parla di femminismo, magari non li sa. Per questo appunto dicevo che è importantissimo il dialogo all'interno del contesto femminista su tutte queste tematiche, perché comunque siamo tutte donne, ma di nuovo siamo tutte donne diverse e di conseguenza abbiamo esigenze diverse, condizioni sociali, socio-economiche diverse, alcune possono essere categorie razzializzate, altre no, quindi per essere sorelle, alleate in questa importantissima lotta contro patriarcato, sessismo, maschilismo, eccetera, è importante anche essere unite chiaramente contro il razzismo, e questa è una delle basi fondamentali chiaramente anche del pensiero femminista, ma anche qua abbiamo bisogno, come nell'antirazzismo, uno sguardo decoloniale anche, no? Del femminismo, e soprattutto ascoltare di nuovo le donne, in questo caso, che subiscono questo tipo di discriminazioni, per trovare comunque anche una soluzione per distruggere una volta per tutte questi schemi oppressivi. Quindi questo è importante. Grazie. Allora, Rosella voleva intervenire? Sì. Sì, buonasera. Buonasera. Io avevo una domanda. Quando ho questa possibilità preziosissima di incontrare un autore o un'autrice, sono sempre molto interessata a capire come è stato scritto il libro, perché secondo me il come è molto co collegato, inesorabilmente legato al cosa, no? Quindi Certo. capire se il processo di scrittura è stato difficile, se ci sono stati dei momenti particolarmente, non lo so, positivi o particolarmente negativi nel corso della scrittura, se c'è stato un metodo, non lo so, scrivere tutti i giorni un capitolo, non lo so, queste cose così, a me mi interessano molto, grazie mille. Certo, di nulla. Allora, io mi occupo principalmente, scrivo articoli, quindi ho un approccio molto, diciamo, tra virgolette, pragmatico, molto da testo argomentativo. Quindi questo qua è un saggio, ci sono le fonti come se fosse quasi una tesi di laurea. Quindi parto da un'introduzione, parto da una tesi iniziale e poi arrivo allo sviluppo e alla conclusione. La struttura ho cominciato praticamente dal decostruire l'anticamera, potremmo dire, del razzismo in Italia, partendo quindi dal colonialismo italiano. Quindi ho voluto avere comunque un approccio storico per capire da dove nasce, per poi arrivare piano piano all'oggi. Quindi approccio storico, colonialismo, analisi della rappresentazione del corpo nero nella televisione italiana, nella cultura pop italiana, per poi arrivare alla, come dicevo appunto, alla questione inerente alla decolonizzazione dei corpi neri, dell'Africa, degli africani, la de-stereotipizzazione dei corpi africani e dell'Africa, fino ad arrivare a che cos'è l'antirazzismo performativo, la questione Black Lives Matter, quindi fino ad arrivare a oggi. Di conseguenza, com'è stato? È stato in realtà potremmo dire, liberatorio, sicuramente, perché c'erano tantissime cose che volevo dire, che volevo buttare fuori. Alcune cose magari altre persone le conoscevano già, come la parte storica, forse un pochino più conosciuta, ma secondo me, più che parlare del razzismo classico, quindi, ripeto, le aggressioni razziste che ho comunque menzionato anche nel libro, però secondo me era più importante analizzare proprio la parte del razzismo che si coglie meno. Cioè, in questo libro ho voluto proprio raccontare alla maggioranza bianca che il razzismo sistemico è in realtà molto, molto, diciamo, presente ovunque, anche negli ambienti meno sospettabili, anche negli ambienti cosiddetti di sinistra, che in realtà anche lì c'è da fare tutta una decostruzione, no, del tipo di narrazione che si fa, anche per esempio in televisione o nei talk show politici, eccetera, dei corpi neri e di come viene vista anche dalla sinistra in modo molto, sempre molto paternalistico, potremmo dire, delle persone nere. Quindi questo ho voluto fare, cioè ho voluto anche proprio decostruire quel lato del razzismo più nascosto, che spesso non si coglie e che spesso la persona bianca in questo caso non è pronta nemmeno a voler accettare. Cioè che magari anche lei stessa che si definisce appunto, cioè lei inteso persona bianca in generale, che si definisce antirazzista, però magari anche lei ha pregiudizi razzisti senza rendersene conto. Di conseguenza è questo che ho voluto toccare e tante volte questo è difficile anche da accettare, però è importante capirlo questo perché altrimenti non ci distaccheremo mai da una visione del razzismo monolitica che appunto come dicevo prima si analizza e si consuma soltanto quando succede l'atto eclatante del neonazista che aggredisce una persona per il colore della pelle. Per quanto riguarda appunto i miei sentimenti, allora è stato sicuramente liberatorio, diciamo che non ho mai avuto sinceramente difficoltà perché ero convinta di quello che volevo scrivere, quindi sono partita per la mia strada, chiaramente mi sono fatta tutti i miei schemini, tutte le mie, diciamo, riassuntini, tante cose comunque le ho recuperate anche, perché erano cose comunque di cui già più o meno avevo parlato anche nei miei articoli precedenti, per chi non sapesse comunque collaboro anche con diverse testate, due testate giornalistiche e quindi erano argomenti che più o meno già avevo affrontato, soprattutto la parte inerente alle migrazioni e alle leggi italiane in materia. Quindi ho avuto un approccio molto, potremmo dire, proprio da testo argomentativo, da tesi di laurea, ed è, diciamo, l'approccio con cui riesco meglio a parlare di queste cose, perché penso che il lato emotivo, quando si parla di razzismo, sia quello che magari le persone vogliono sentirsi dire, no? Cioè, magari come è stato per te la tua esperienza, che è importante, però secondo me per avere un approccio ancora più serio del razzismo, è importante proprio fare anche un'analisi quasi scientifica del razzismo stesso e di come agisce nella società, per far sì che la questione non sia semplicemente una questione inerente alle emozioni, ma dimostrare proprio che il razzismo è una questione reale, sistemica, politica, socio-economica e appunto culturale, e riguarda proprio tutti questi ambienti qua. Ed è importante, secondo me, assolutamente decostruirli senza senza nemmeno troppe emozioni. L'unico lato magari personale che ho messo nel libro è proprio quando ho parlato della questione dello Ius Soli, in cui ho narrato un piccolissimo frammento della mia esperienza personale inerente al fatto di quante volte appunto andavo con mia madre all'ambasciata nigeriana appunto a Roma per la questione dei documenti, il rinnovo tutte le questioni burocratiche appunto di mia madre, e io la seguivo ovunque, anche per la questura eccetera eccetera, nonostante io fossi nata e cresciuta in Italia. Quindi era un iter burocratico che io da piccola non capivo, oggi capisco che chiaramente, siccome io ero considerata italiana come gli altri bambini della mia classe, dovevo andare con mamma negli uffici di immigrazione, nelle questure e così via. Quindi quello è l'unico lato, potremmo dire, personale che ho messo, però ho voluto proprio insistere nella parte oggettiva del razzismo, analizzare dal punto di vista sistemico per far capire proprio come sia completamente presente, potremmo dire, nella realtà italiana, e quindi una volta che hai l'evidenza davanti, insomma, non puoi scappare, bisogna assolutamente interfacciarsi con essa. Grazie mille. E Daria? Allora, intanto ciao Oiza, grazie. Ciao. Io faccio parte del collettivo della libreria, quindi rinnovo il ringraziamento da parte di tutti. Grazie. La gioia comunque, anche se appunto non possiamo fare questo incontro in presenza, comunque di riuscire in qualche maniera, no? Ad averlo portato a casa, ed è molto interessante. Io, visto che l'hai citato un paio di volte questa tematica, mi volevo un po' forse allontanare dal seminato, però mi volevo ricollegare a uno degli ultimi articoli che hai scritto su The Vision, sulla questione appunto del tentato attacco al Campidoglio americano del 6 gennaio, e del successivo tweet di Gori, che appunto in qualche maniera riportava questa manifestazione, questo attacco in un alveo di classe. Quindi, in qualche maniera, poverini, comprendiamoli, sono ignoranti, classe disagiata, e quindi in qualche maniera abboccano a tutta una serie di, come anche poi in questo momento di suprematismi e sovranismi capita un po' dappertutto, e in qualche maniera abboccano a questo tipo di discorso. Quindi, più che una domanda, è uno spunto di riflessione. Per quale motivo, no? In qualche maniera la classe, che forse in questo momento ci interesserebbe molto, no, riprendere come punto di partenza, no, di tutta una serie di riflessioni, e che è praticamente scomparsa dal panorama del discorso pubblico, politico e sociale, tranne nelle nostre microbolle, da decenni, viene sempre solamente utilizzata in maniera, diciamo, quasi autoassolutoria. Sì, un po', ecco, riflettere sul concetto di classe, che appunto è scomparso, no, dal panorama del discorso pubblico da 30 anni, viene utilizzato per assolvere le peggiori cose. Quindi viene in qualche maniera negato il concetto di classe, quando appunto rientra nell'alveo della lotta, no, dell'unità. Adesso sembra di utilizzare, no, termini e tematiche di secoli precedenti, però quando la classe si unisce per lottare per i propri interessi, viene demonizzata. Quando invece il discorso di classe viene utilizzato per assolvere comportamenti violenti, parafascisti, o razzisti o sessisti, invece diciamo che la classe ritorna in auge e diventa appunto la copertina di Linus per e in qualche maniera, no, è un discorso anche che la classe la svilisce e la squalifica, perché poi la classe proletaria diventa solamente una classe di buzzurri ignoranti che, poverini, sì, sono razzisti, sono sessisti, ma che ci vuoi fare, tanto sono ignoranti. Quindi ecco, voleva essere un po' uno spunto di riflessione rispetto a questo, visto che ne hai scritto pochi giorni fa. Certo, il problema è proprio questo, il fatto che la sinistra, potremmo dire mainstream ormai, per come la vedo io, si è ormai distaccata, potremmo dire, proprio da queste tematiche, le tematiche di disuguaglianza, del fatto che appunto se ci sono fratture sociali importanti, diciamo c'è più una demonizzazione, sono tutti, come si dice sui social, analfabeti funzionali, sono tutti ignoranti. Però la sinistra allora che ruolo ha in tutto questo? Cioè, se tu diventi elitaria, ti distacchi dalle masse, e poi più aumentano le disuguaglianze, più c'è, d'altra parte, vero anche l'emergere di razzismi, populismi nazionalisti e fascismi, quindi è chiaro questo. Il problema è proprio che si utilizza la classe, si utilizzano proprio le fratture sociali per categorizzare appunto un'intera classe sociale come razzista. Però, come ho scritto anche nel mio articolo, qui abbiamo allora una doppia deresponsabilizzazione alla luce del tweet di Giorgio Gori, che adesso vi dico praticamente aveva categorizzato l'attacco al Campidoglio come una reazione della classe, diciamo, di proletari statunitensi, e l'ha definiti come poco istruiti, junk food, quindi cibo da strada, e fake news nelle marionette di Trump, una roba del genere. Ecco, io avevo scritto nel mio articolo che però che con questa affermazione classista abbiano una doppia deresponsabilizzazione, cioè da una parte quella della sinistra che è ormai evidentemente lontana da tematiche di classe inerenti proprio a sanare le disuguaglianze sociali, perché se uno è poco istruito non è perché è scemo, ma perché evidentemente non ha le risorse necessarie per poter accedere allora all'istruzione. Allora lì che allora bisogna agire, no? Non colpevolizzarlo perché, ecco. Dall'altra parte viene una seconda responsabilizzazione, ovvero quello del razzista stesso, perché comunque un suprematista bianco, che è il caso di chi ha assaltato il Campidoglio, sceglie scientemente di far parte di ideologie basate su secoli di colonialismo, imperialismo e disuguaglianze sociali, perché comunque chi ha assaltato il Campidoglio l'ha fatto non per smantellare le disuguaglianze sociali e il razzismo, come hanno fatto fino adesso le proteste Black Lives Matter, così come fecero a loro tempo le Black Panthers e il Movimento per i Diritti Civili, ma hanno assaltato il Campidoglio per mantenere lo status quo di razzismo, disuguaglianze, suprematismo, che è quello che poi è diventato chiaramente Donald Trump. Ma allo stesso tempo io ho voluto dire nel mio testo che il razzismo sistemico non è semplicemente Donald Trump. Donald Trump è l'evoluzione estrema del razzismo sistemico, ma il razzismo sistemico è alimentato da disuguaglianze sociali e razzismo, questioni concatenate che non sono mai state sanate. Di conseguenza questo è il problema, il fatto stesso che la classe, appunto, quando se ne parla, come dicevi giustamente tu, se ne parla soltanto per appunto dichiarare le persone che magari di classi sociali più svantaggiate come ignoranti, no? Senza però agire sui disagi sociali di queste persone, criticandole solamente, prendendole in giro, categorizzandole come razziste all'occorrenza, ma questo permette allo stesso tempo alla sinistra mainstream partitica di smarcarsi dal razzismo, perché magari dicono, vedi, i populisti sono loro, non noi che magari siamo nell'alto della nostra torre d'avorio, comunque senza continuare a non fare nulla per sanare disuguaglianze e razzismo. E questo è proprio l'approccio sbagliato, e chiaramente è importante, come dicevi tu, recuperare il concetto di classe, ma è importante che la sinistra, in questo caso parlo soprattutto, noi lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma fa ridere appunto che la sinistra partitica, tra virgolette, mainstream, sia quella che parla di proletari e classi quando, per categorizzare i razzisti, ma non ne parla mai quando bisogna parlarne. Cioè, pensiamo adesso con chiaramente la pandemia, tutti i disagi sociali delle persone, vedremo anche cosa combineranno con questo recovery fund, quando ci sarebbe da investire su scuola, sanità, cose importantissime, no? Quando si parla di queste cose, non esistono loro, cioè silenzio assoluto. Cioè, è assurda questa cosa qui, e però ti fa capire come ormai purtroppo siamo arrivati a una situazione in cui chi si dichiara comunque, o chi fa parte di questi partiti democratici, però in realtà non non fa nulla per sanare queste disuguaglianze, e purtroppo dove ci sono le disuguaglianze sociali nascono anche, ci sono magari anche altre destre che si insinuano, che magari si pongono come la soluzione quando in realtà non fanno altro che alimentare a loro volta chiaramente fascismi, populisti, nazionalisti, eccetera eccetera eccetera. Però il problema è questo, che come stavi dicendo tu e giustamente sottolineato, utilizzare proprio frasi classiste come ma tanto chi vuoi che siano questi qua che assaltano il Campidoglio, dei proletari, ecco, proletari, che tra l'altro è una parola che fa parte comunque di anni di lotta di sinistra, di classe, no? E cosa c'entra con i suprematisti bianchi? E aggiungo un'ultimissima cosa, tra parentesi, i suprematisti che hanno assaltato il Campidoglio, tra l'altro, erano tutt'altro che proletari. Tanti erano amministratori delegati, c'erano poliziotti fuori servizio, c'erano avvocati, c'erano addirittura anche ex politici, quindi persone tutt'altro che povere, potremmo dire, no? Una donna addirittura è volata da, ha preso la jet privato dal Texas fino a Washington per assaltare il Campidoglio, quindi per farvi capire, no? Quindi anche questo è stupido, e soprattutto questa frase di Giorgio Gori non fa altro che alimentare il fatto che il razzismo sia soltanto una questione, sia soltanto un qualcosa che si alimenta, diciamo, nelle classi sociali più basse, quando in realtà è una questione che riguarda appunto anche classi sociali più elevate, quindi soprattutto lo si ha in una posizione di potere, potremmo dire, no? Quindi le istituzioni, come abbiamo visto, e ecco, questo, quindi il razzismo sistemico viene dall'alto, questo è il discorso. Grazie mille, Oida. Prego. Mi sono accorta che c'è un messaggio in chat. Sì. Di Raffaele, lo leggo così magari... se ne vogliamo commentare. Allora, il razzismo è di sicuro un problema soprattutto di noi persone bianche. Se la civiltà europea non avesse mai definito la bianchezza come la norma, non sarebbe mai esistito il razzismo. Esatto, cioè sì, questa è una cosa vera, nel senso che è difficile anche da far ammettere alla persona bianca, perché tante volte in lei nasce questo senso di inadeguatezza, cioè a un certo punto quando tu magari gli sbatti in faccia queste cose qua, un attimo c'è quello shock iniziale in cui allora dice ma allora io, o c'è uno shock iniziale in cui la persona realizza ed è curiosa e vuole saperne di più, oppure si alza un muro, la persona non vuole più parlare con te e anzi ti dice che tu sei esagerata e che comunque ti dice ma io però non c'entro niente con i colonialisti del 100, ed è vero, per carità, però il privilegio bianco della persona, che la persona ha in quanto persona bianca, c'è. Quindi questa idea di bianchezza, comunque sia la whiteness, che è un concetto che comunque negli Stati Uniti, per esempio, di cui si parla molto, di cui tantissimi professori accademici, ma anche scrittori e scrittrici afrodiscendenti afroamericani hanno molto parlato. In Italia diciamo che cominciamo adesso a parlare di queste cose, introduciamo adesso, quindi non è semplicissimo, secondo me, far capire cos'è la bianchezza, perché non è semplicemente l'essere bianco, proprio il modo di concepire la realtà, la società occidentale, che è basata sulla bianchezza, ma una bianchezza che si basa su un sistema di disuguaglianze, di privilegi e di razzializzazione di determinate categorie. Di conseguenza concordo con la tua osservazione, il fatto che comunque dobbiamo assolutamente ricostruire questo concetto di bianchezza, e quindi questo non significa che adesso io ce l'ho con tutte le persone bianche, eccetera, eccetera, stupidaggini, però nel senso è importante, secondo me, avere dialoghi come stiamo avendo in questo momento, per capire proprio come distruggere appunto questi concetti di razzismo sistemico, per far sì che appunto insomma possiamo raggiungere appunto una realtà migliore di quella di come è oggi, insomma. Non è semplice assolutamente, però bisogna partire da qualche parte, e secondo me proprio cominciare ad ascoltare appunto le minoranze, secondo me è importantissimo, è la base fondamentale. Se non ci sono altre domande, vorrei farti una domanda che mi ha mandato una ragazza che partecipa al gruppo di lettura, ma che questa sera non poteva essere qui presente. Anche questa te la leggo, così facciamo prima. Il potere ha sempre esercitato il controllo dei corpi, che portano un vissuto di sofferenza spesso indicibile. Come può la voce, la parola liberale, liberare da questo controllo? E come può l'esperienza del singolo diventare esperienza di libertà collettiva? Difficile domanda. Era molto interessata al rapporto tra corpi e potere. Sì, Allora, dunque, allora, fammi pensare. È difficile perché comunque sia, innanzitutto la parola del singolo che può diventare liberazione collettiva, detto esperienza collettiva. Allora, questo sicuramente è qualcosa che possiamo collegarlo proprio a quello che dicevo prima, quindi all'importanza dell'ascolto, perché nel momento in cui tutti si rendono conto che è necessario collaborare per la liberazione magari di chi non è libero, in questo caso parliamo di categorie marginalizzate, eccetera, eccetera, eccetera, nel momento in cui tutti hanno questa consapevolezza, chiaramente si può arrivare a una liberazione collettiva. Questo vale sia per le categorie razzializzate che per le donne, cioè quindi è un discorso che si può fare anche in questo senso. Però la parola, aveva detto? La parola? La seconda domanda? Un attimo che lo riprendo. Sì. Sì, allora, la parola, no, come può la voce o la parola liberare, non mi viene, da questo controllo, dal controllo dei corpi. La parola nel controllo dei corpi, la parola Cioè, io allora, penso che per voi... esempio, no, Vai, vai. sto pensando anche al modo in cui si utilizzano le parole, cioè l'importanza di utilizzare Esatto, parole nuove per descrivere, ho capito, io cioè penso allora. che sia anche proprio la narrazione, come può avere questo potere, appunto, di liberare dal controllo. Certo, è importante la narrazione in quanto appunto, come stavo dicendo prima, le nuove narrazioni, come dico io, ascoltare una pluralità di narrazioni di voci è importantissimo per avere uno sguardo diverso comunque sulla realtà, che ci circonda, soprattutto inerenti, in questo caso ne stiamo parlando di razzismo, perché se utilizziamo soltanto una parola che conosciamo, un tipo di narrazione che conosciamo, come quella che dicevo prima, la narrazione su Africa, africani, come vengono visti i corpi, visti soltanto in un certo modo, abbiamo un solo tipo di narrazione, eurocentrica, monolitica, che non ci fa capire come sono le realtà diverse appunto che ci circondano e che sono importanti comunque da decostruire. Di conseguenza abbiamo bisogno di una pluralità di narrazioni per far sì che arrivi anche una consapevolezza maggiore, potremmo dire, no? Di decostruire tutti questi sistemi di razzismo. Quindi il cambiamento, chiaramente adesso non penso che il mio libro possa essere, diciamo, la rivoluzione, perché è una cosa che chiaramente deve essere poi fattuale, collettiva e di consapevolezza, però sicuramente iniziare a informarsi, a leggere anche di più magari di diversi autori e autrici che parlano di queste tematiche e di narrazioni diverse può far nascere una consapevolezza completamente diversa e una conoscenza anche magari, no, di cose che magari prima si davano per scontate oppure che non si sapevano nemmeno. Ed è importante, secondo me, avere una maggior consapevolezza di queste narrazioni. Quindi è importante anche dare spazio, voce a una pluralità di narrazioni diverse di persone che appunto sono anche categorie discriminate e razzializzate, perché altrimenti si ha una narrazione monolitica e unica che però non ci porta a una decostruzione seria. Quindi è importante. Bene, grazie. Grazie a te. Io, se non ci sono altri interventi e domande, ecco, perché ormai ecco, sono le 11, no, le 10:15, le 10:15, quindi oggi già ti abbiamo fatto parlare tanto. Grazie comunque. Niente, ovviamente sì, volevo ringraziarti e tutta la libreria Sabò, ecco, ti vuole ringraziare per la tua disponibilità e per essere stata davvero disponibile nel condividere con noi il tuo libro, i tuoi pensieri e le tue opinioni. E quindi niente, io vi saluto e vi ricordo, in realtà vi anticipo perché ancora non siamo usciti con la pubblicità, che il 26 gennaio, sempre allo stesso orario, alle 9:15, presenteremo con il libro di Tamo Edizioni, Elogio del Margine, con la traduttrice Mariana Dotti, Elogio del Margine di Belux. E quindi niente, continueremo con Eterotopie. E per oggi grazie mille a tutte e a tutti per aver partecipato, in particolar modo a Oiza, ecco, ancora una volta, Grazie e a presto e mille. Ciao a tutte e a tutte, buonanotte. buonanotte. Ciao.